e così ci conforta un accordo che gentilmente ci chiude plebeo. La catastrofe in mezzo e nel cuore, ma ci sta recintata, arroccata